Domani doveva esserci questo dibattito all'interno del congresso nazionale della FILT CGIL con la presenza sia di Moretti e sia del ministro Lupi. I familiari, come fanno da anni ormai, ad ogni iniziativa dove è presente Moretti, sia del Partito Democratico di altri convegni, vanno a ricordare a Moretti che c'è una strage di 32 vittime di cui lui attualmente, secondo la procura, è il massimo responsabile, con accuse pesantissime. Considerate che siamo venuti anche il 28 novembre 2011 alla stazione Tiburtina a Roma, in cui era presente l'allora ministro Passera, Moretti e Napolitano, e i familiari, 50 venuti da Viareggio, per ricordare quanto avvenuto il 29 giugno 2009, furono blindati al di fuori della stazione per non disturbare i festeggiamenti per la riapertura della stazione Tiburtina. Questo per dire il clima pesante nei confronti di familiari che hanno perso figli, ragazzi, bambini bruciati vivi in questa strage ferroviaria. Se ce la ricordiamo bene, quella giornata la seguimmo tutta in diretta, quella mattinata fu una cosa veramente atroce. È una pagina nera che non dobbiamo mai dimenticare. Io la ricordo sempre perché mette in chiaro cos'è lo Stato oggi nei confronti dei deboli e che ha subito tragedie in mano come questa. Domani era annunciato questo dibattito interno al sindacato, di cui tra l'altro Moretti è stato alcuni decenni fa segretario nazionale, e i familiari hanno pensato giustamente, insieme all'Assemblea 29 giugno, di essere presenti per dire: invitate Moretti e non invitate i familiari che discutono e si battono per la sicurezza, per la verità e per la giustizia. E quindi avevamo deciso di essere presenti domani con presidio, che comunque lo si terrà, perché noi oggi chiederemo l'intervento della Presidente dell'Associazione dei Familiari domani al congresso della CGIL. Senti, loro hanno detto che questo dibattito, tra l'altro con la presenza del Presidente Rossi della Regione, del Ministro Lupi, del Vicepresidente della Lega Ambiente, di altri personaggi, doveva discutere il servizio universale tra mercato, mancanza di regolazione, il caso del trasporto regionale e locale, considerando che Moretti, con la sua politica non solo di abbandono della sicurezza, purtroppo ne abbiamo visto i disastri, ma anche ha sviluppato una politica di devastazione del trasporto regionale pendolare, per cui noi diciamo: come si fa a invitare un personaggio di questa fatta a discutere del trasporto regionale in un'organizzazione che dovrebbe preoccuparsi dei pendolari, dei viaggiatori e soprattutto della sicurezza? Per cui c'è stata questa protesta vibrante, si sono aperte delle contraddizioni negli ambiti dirigenti del sindacato, e ovviamente ieri è arrivata il ritiro di questo invito, scrivendo addirittura: per evitare possibili tensioni a livello locale strane al congresso. Ora, come dire che i familiari delle vittime sono le tensioni strane al congresso? Cioè, i familiari delle vittime si battono per la sicurezza, per la verità sulla strage di Viareggio, e sarebbero estranei a un congresso di lavoratori e lavoratrici? Sarebbero possibili tensioni? Cioè, questi sono, credo che abbiano perso il lume della ragione, per cui noi faremo di tutto per denunciare queste cose e soprattutto per affermare la battaglia che stiamo conducendo da 5 anni e che vede 33 imputati, tra cui i massimi dirigenti delle ferrovie, in primis Mauro Moretti, amministratore delegato. Per cui diciamo che questa battaglia continua per denunciare e per rivendicare non solo la sicurezza, ma noi rivendichiamo anche le dimissioni immediate di Moretti, perché lo Stato non si è costituito parte civile al processo. Questo è un fatto che in qualche modo assolve già Moretti, è già una sentenza politica. E poi ha rinominato il governo, dopo la strage di Viareggio, 2 volte Moretti amministratore delegato, nonostante che i familiari siano stati più volte presenti a Roma a denunciarne la gravità di questo fatto. Sia il governo Berlusconi nel 2010 che il governo Letta nel 2013 lo hanno rinominato, e ovviamente noi chiediamo le dimissioni perché lui è imputato, ha accuse pesantissime, deve rispondere di fronte alla giustizia, se così si può dire, e poi si è permesso in questi anni di offendere quotidianamente familiari, definendo la strage di Viareggio uno spiacevole episodio, o addirittura dicendo che il problema sicurezza non esiste in ferrovia, quando dal 2007 ad oggi è statisticamente provato, sono morti sui binari 43 lavoratori, ogni due mesi muore un lavoratore. L'ultimo a gennaio a Santa Maria Novella, un ferroviere di 34 anni che stava facendo un servizio da solo e di notte, quando prima dei grandi processi di ristrutturazione quel tipo di mansione veniva svolta da tre ferrovieri. Questo per dire che ci sono pesanti responsabilità, non si tratta di sciagure, non si tratta di errori umani, noi lo abbiamo scritto, l'unico errore umano che abbiamo è quello di non ribellarsi a questo stato di cose, per garantire sicurezza, diritto alla vita, la salute, e poi che i responsabili di queste immani tragedie paghino definitivamente. Noi non possiamo né dimenticare una strage come Viareggio, né far sì che non vi siano complici, che non vi siano responsabilità, e tantomeno battersi perché non abbia a ripetersi, perché viste le condizioni e l'organizzazione del lavoro, attraverso liberalizzazioni, privatizzazioni e tutto quello che sappiamo, ovviamente la sicurezza è diventata un optional. Per cui noi questa battaglia diciamo che è decisiva e determinante, e la richiesta di dimissione di Moretti sta in questa battaglia, non è una cosa tanto per dire. Lui deve dimettersi, affrontare il processo e chiedere scuse familiari. Questo è quello che noi chiediamo, porteremo la battaglia fino in fondo. Sappiamo che abbiamo di fronte poteri forti, per cui abbiamo bisogno anche del massimo di solidarietà, partecipazione, consenso, mobilitazione, cosa che abbiamo fatto in questi anni, ma sicuramente per modificare i rapporti di forza a vantaggio dei lavoratori e lavoratrici, in questo caso di familiari che hanno perso tutto in questa strage, dobbiamo sviluppare maggiormente questa iniziativa e questa mobilitazione. Domani saremo comunque al presidio, nonostante che Moretti sia stato cancellato da questa iniziativa, o siano stati costretti a cancellarlo, perché chiederemo che intervengano i familiari dentro il congresso. Non sappiamo come andrà a finire, ma pensiamo che sia una richiesta diciamo di civiltà, di umanità, l'unica richiesta possibile. Solo loro possono parlare di sicurezza e di una strage come quella di Viareggio. Sì, poi hai fatto benissimo insomma a mettere l'accento sulle tanti morti che ci sono stati negli ultimi anni. Noi ci occupiamo di quanto è successo a Viareggio in primis, perché è stata una strage pazzesca, folle, ma oltre a quella continua uno stillicidio di morti, uno, due, tre lavoratori a distanza di mesi, a volte di settimane fra di loro, che quasi sempre insomma non bucano i media, non bucano i giornali, e però stanno lì presenti. Insomma, è una questione che riguarda tutte e tutti, non soltanto chi ha perso qualcuno a Viareggio quattro anni fa, ecco. Considerando anche, vorrei aggiungere, che per la battaglia che stiamo conducendo da anni sulla sicurezza, noi abbiamo pagato come ferroviere un prezzo altissimo, attraverso intimidazioni, ricatti, minacce e soprattutto sospensioni e licenziamenti. Abbiamo ancora diversi nostri compagni licenziati perché si sono battuti in questi anni sulla sicurezza, e questa è un'offesa al diritto, all'agibilità sindacale per difendere la sicurezza e la salute in luoghi di lavoro. Per cui diciamo che è un'aggravante politica che va al di là del processo nei confronti di Moretti, che si è assunto lui la responsabilità di questi licenziamenti e ne deve rispondere, perché non si può aggredire, come ha fatto quel soggetto, i delegati RLS, gli attivisti sindacali, perché denunciano il problema di sicurezza che è reale, che è concreto. E quindi altro che congressi, dibattiti o stipendi. Tra l'altro c'è anche quest'ultima polemica di Moretti, che si è fatto portavoce di questa crociata a difesa dei manager, dei boiardi di Stato. Dicevo, altro che congressi, dibattiti e stipendi, Moretti deve rassegnare le dimissioni, o perlomeno chi lo ha rinominato deve cancellare questa sua responsabilità di amministratore delegato, perché in questi anni ha soltanto devastato il trasporto ferroviario in termini sociali e pubblici, e soprattutto aggredito la sicurezza, sviluppando una politica di abbandono con i disastri che abbiamo visto in questi anni, tra i binari e i disastri ferroviari, che nella strage di Viareggio non hanno solo fatto vittime tra ferrovieri e viaggiatori, ma anche di cittadini che stavano riposando nelle proprie abitazioni. Questo è, diciamo, la tragica novità della strage ferroviaria del 29 giugno 2009. Quindi la battaglia è sicuramente molto importante, determinante, e chiaramente noi dobbiamo costruire consenso e partecipazione e obiettivi chiari per condurla fino in fondo. Siamo all'inizio del processo e quindi anche lì noi lo abbiamo detto chiaramente, la verità è già scritta, c'è una verità politica, c'è una verità storica, ma c'è, faremo in modo che parte di questa rientri nelle aule giudiziarie. Il processo dal punto di vista dei fatti è chiaro, è semplice, è complesso perché abbiamo di fronte poteri forti che faranno di tutto per contrastare e quindi far sì di non avere alcuna responsabilità in una situazione che invece purtroppo per loro ne hanno grandiose di responsabilità, tutte le società coinvolte e tutti gli imputati di questa strage ferroviaria. Riccardo, ti ringraziamo moltissimo. Noi ci sentiremo magari domani per farci raccontare in diretta il presidio, come è andato, se ci sarà almeno questo diritto di tribuna in qualche modo all'interno del congresso. Prima di lasciarci, ci ricordi orario e luogo del vostro presidio, anche per chi volesse raggiungervi in qualche modo da fuori Firenze? Sì, noi ci troviamo domani al centro dei congressi a Firenze, in piazza Adua, vicino alla stazione Santa Maria Novella, dalle ore 12 alle ore 17. Saremo lì intorno a mezzogiorno, poi valuteremo ovviamente sia la richiesta di che possa entrare una piccola delegazione, possa fare un intervento la Presidente dell'Associazione dei Familiari delle Vittime, e poi diffonderemo materiale per far conoscere ai presenti, ai passanti, che c'è una strage di Viareggio che noi non dimentichiamo. Vogliamo giustizia, vogliamo la verità e soprattutto oggi rivendichiamo le dimissioni di uno dei maggiori responsabili di questa strage ferroviaria, e cioè il cavaliere dottor Mauro Moretti. Benissimo, Riccardo, ti ringraziamo e facciamo un in bocca al lupo per tutto quanto. Ti chiederei di rimanere un attimo in privato, se puoi.